E siamo sempre in onda qui dal Salone Internazionale del Libro. Io sono di nuovo Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter. E torniamo con Sono solo nuvolette. Credo che Alessandro in regia ci può testimoniare che oggi qui al Salone sono passate un po' tutte i programmi di Radio Archimede. Alessandro annuisce giustamente perché lui deve fare la regia, non pensare a dare corda a questo disgraziato di un aspirante DJ. Ma l'occasione per tornare in onda sulle frequenze digitali in diretta dal Salone del Libro me lo offre posso dire un amico ritrovato, perché è una persona con cui ho collaborato in passato e oggi ho riconosciuto dalla fotografia su Facebook, e queste sono le magie dei... non ci eravamo mai incontrati di persona. Carmine Treanni, io lo conosco come direttore di Delos Science Fiction, che è, direi, sicuramente la più longeva e la più affermata webzine di fantascienza italiana. E poi in questo qui al Salone ti ho trovato come direttore editoriale di 100 autori di questo marchio editoriale di Napoli, giusto? Sì, buongiorno a te Fulvio e un saluto a tutti i radioascoltatori. Il discorso interessante con te era, prima abbiamo avuto Valentino Sergi, a me tende a piacere molto ricostruire un po' tutta una serie di panorama fantastico di immaginazione che è diventato sempre più popolare, perché anche la fantascienza cominciano a essere tanti i film di fantascienza, eppure è come se si prendesse solo la parte superficiale e non ci si accorgesse, nel caso della fantascienza, di quanto sia una letteratura di idee, quante decine di anni abbia sulle spalle questo genere, quanti importantissimi narratori che ogni tanto qualcuno tipo Bradbury passa di grado e compare negli Oscar Mondadori, però non sempre, cioè autori come Clark, Fritz Leiber, Robert Howard sono ancora negli scaffali polverosi, non vengono ristampati, eppure sono importantissimi per il genere e per il cinema commerciale attuale. Carmine, tu che tanti anni per passione e per professione bazzichi in questo ambito, ti sei fatto ti sei dato una risposta alla domanda del perché l'Italia non è un paese per la fantascienza e per il fantastico? Bisogna distinguere alcune cose. La prima è: l'Italia è fondamentalmente un paese umanistico, dove la scienza non ha avuto sempre un ruolo centrale nel discorso dell'educazione e della formazione dei giovani. Abbiamo in questo momento Samantha Cristoforetti, la nostra astronauta in orbita, ed è l'esempio più lampante poi di come l'Italia possa, con le sue eccellenze, risorse umane e industriali, portare a risultati grandissimo livello. Detto questo, però, la fantascienza, anche qui bisogna distinguere i discorsi, quella letteraria è sicuramente in sofferenza da molti anni, ci sono pochi editori, spesso non hanno faticano a trovare il loro spazio in libreria. Limitatamente all'Italia stiamo parlando. Sempre dell'Italia, okay, certo. Però invece più in generale la fantascienza poi ha un grande successo, basta guardare il cinema, anche il cinema supereroistico, ma anche il cinema d'autore, pensiamo a Interstellar, anche il videogioco ha un grandissimo successo. La fantascienza è lo scenario di moltissimi saghe, videoludiche, però non trova poi una corrispondenza a questo grande successo nel discorso letterario, che invece, come dicevi tu, molti autori importanti, ma anche più recenti, faticano a trovare uno spazio adeguato. Ma un esempio per me, per esempio, è Jeff Vandermeer, che è un autore che è molto importante, ha fatto la guida steampunk, Be the Media, è un autore che è sul mercato almeno da una decina d'anni e improvvisamente invece compare, credo per Einaudi, sì, esatto, sotto un'etichetta New Weird, deve essere confezionato in una maniera stranissima per esistere sul mercato. Sì, sì, ma è da molti anni che la fantascienza, almeno alcuni autori di fantascienza americana, inglese, compaiono nelle collane di editori anche importanti, no? Qualche anno fa ricordiamo Ballard, anche le sue prime opere più fantascientifiche. Caspita. Vennero ristampate da Baldini e Castoldi, da Feltrinelli, anche da altre case editrici. C'era anche Vonnegut, che venne sempre da Feltrinelli ristampato. Poi c'è Dick, che improvvisamente Dick, è piaciuto a un'intelligenza culturale, improvvisamente è Dick uscito. Dick però è pubblicato anche attualmente da Fanucci, che è comunque storicamente un marchio che per un po' di anni ha abbandonato la fantascienza, adesso è ritornata ripubblicando anche molte saghe letterarie importanti di autori come Farmer ed altri. Quindi, però, ecco, sì, sono... è comunque un marchio che ha sempre lavorato sulla fantascienza. Quello che dicevi tu è il discorso che... Ci sono autori che poi, in qualche modo, in Italia passano per non essere, diciamo, autori di fantascienza, perché come etichetta la fantascienza fa, tra virgolette, un po' paura all'editoria. Esatto. Perché ci sono, diciamo, non c'è un gran numero di appassionati, di lettori disposti a comprare. Diciamo, dall'altro lato c'è anche però che la fantascienza ha un suo zoccolo duro che resiste da anni. Il problema, sì, forse è che manca un po' il ricambio generazionale. Le nuove generazioni fruiscono della fantascienza, ma non dal punto di vista letterario, ma quanto dal punto di vista, appunto, videoludico, con i, sì, videogiochi, il cinema e così via. Per cui è chiaro che uno si aspetterebbe che nel momento in cui ci sono film come Interstellar o Avengers che hanno un successo incredibile e che tanti giovani sono in coda per vedere questi film, che sono fantascientifici, o almeno in parte se non in tutto, si aspetterebbe poi di trovare per una parte di questi giovani a comprare libri di fantascienza, ma purtroppo non è così. E questo riflusso manca, questo ne parlavamo prima con Valentino Sergi a proposito della Marvel. La stessa Marvel America, USA, la casa editrice, non ha una effettiva ricaduta del film degli Avengers sulle testate. E perché in realtà c'è tutto un discorso di immaginario, di cinema e di alfabetizzazione. Nel caso del fumetto è ancora più limitata, l'alfabetizzazione al fumetto è ancora più limitata rispetto alla narrativa. Cioè c'è tante persone che magari non hanno l'abitudine a leggere il fumetto a prescindere, quindi non lo comprerebbero. E nel caso della fantascienza può darsi che si farebbero fermare dall'etichetta. Sì, il problema è questo, diciamo, che non c'è, non si fa, ecco, un discorso di promozione della lettura in generale in Italia, che sappiamo i dati sono abbastanza bassi delle persone che leggono e arrivano a leggere sistematicamente nel corso dell'anno un certo numero di libri, e per la fantascienza non c'è anche in questo senso una promozione del romanzo di fantascienza, sia quello descritto da autori stranieri, anglosassoni, americani, sia per quanto riguarda gli italiani. Diciamo, una delle poche realtà che mantengono vivo il settore è Urania con Mondadori, poi ci sono altre case editrici, la Delos Books stessa, che anche con il suo marchio Delos Digital sforna tantissimi classici e soprattutto racconti e romanzi in ebook anche di primissimo livello di questi ultimi anni, multipremi Hugo, premi Nebula di questi anni, che sono arrivati appunto sulla scena letteraria americana in questi ultimi anni. E tanto per contestualizzare, premio Hugo in particolare è il più importante premio, in assoluto, Oscar, della, diciamo, fantascienza. Della fantascienza, esatto. Vincere il premio Hugo significa aver raggiunto per uno scrittore il non plus ultra, diciamo così, delle sue possibilità letterarie, esatto, almeno a livello di premiazione. E poi ci sono tante altre case editrici che più o meno hanno una distribuzione molto limitata e quindi e ovviamente si fa fatica quindi a far arrivare proprio un'offerta ai lettori, ai giovani e anche ai meno giovani. Certo, internet aiuta in qualche modo, sicuramente è più, diciamo, utile per i più giovani, che sono, come dire, più avvezzi a comprare ebook o comunque libri, sì, attraverso i canali di internet. Però insomma c'è ancora un discorso che moltissimi scrittori, moltissimi lettori pensano anche che certi film o certe cose siano idee del momento, quando in realtà scrittori americani degli anni 40, degli anni 50, degli anni 60 avevano già prodotto tantissime idee dello stesso genere. Sì, è molto interessante film. Per esempio lo stesso Matrix, quando è arrivato al cinema, il film, in realtà i mondi fittizi, questa creazione di un mondo fittizio eccetera, c'era già stato parzialmente comunque il neuromante di Gibson, ma già prima anche Philip K. Dick. Le ossessioni portate sullo schermo in Matrix sono tante. È, sì, sembrato qualcosa di nuovo, ma in realtà c'era tanta... Sì, esatto, è proprio questo l'effetto, cioè che si pensa che il film è arrivato nel 99, mentre già a metà degli anni 80, 84, è l'uscita del romanzo Neuromante di William Gibson, che è un po' proprio il capostipite di questo genere, il cyberpunk, ma c'era anche una raccolta di racconti, sempre di Gibson, di due anni prima, che aveva già alcuni racconti come New Rose Hotel e altri che avevano già portato avanti queste tematiche che poi lui svilupperà in Neuromante. Poi c'è Dick, sicuramente, che aveva già dato, come dire, segni della virtualità, diciamo così, da poter inserire come una delle grandi idee intorno alla quale poi è ruotata la fantascienza per moltissimi anni. Da noi queste cose sono arrivate con almeno un decennio di ritardo, questi romanzi e queste storie, e quindi in qualche modo poi c'è sempre un gap, no, tra ciò che viene pubblicato oggi in America e quello che arriva poi in Italia. Oggi arriva pochissimo rispetto a quello che è, diciamo, la produzione inglese e americana in particolare. Se tu dicessi, quindi tu immagino tieni un po' d'occhio anche produzione inglese e americana all'estero, c'è qualche autore che tu consiglieresti di leggere a questo punto in lingua originale, perché magari non viene tradotto? Ma ci sono vari autori, qualcuno è arrivato anche, diciamo, in Italia, quindi per esempio penso a Charles Stross, che è una delle sicuramente degli autori più importanti che abbiamo in questo momento sul mercato, e che può sicuramente riscuotere un gradimento soprattutto presso i lettori più giovani, perché parla di situazioni sociali e ambientali, ma anche di realtà informatiche che probabilmente sono molto più vicine ai giovani d'oggi che a persone come me, che sono di un paio di generazioni più in là, diciamo. Sì, beh, credo che la fantascienza abbia bisogno anche un po' di sintonizzarsi sulle angosce, sui temi della propria epoca. Una stranezza per me che mi piace citare è Atto di Forza, l'originale, Total Recall con Schwarzenegger, per portare il tema della rimozione della memoria, della cancellazione della memoria quasi in maniera informatica, doveva situarsi in un futuro. Pochi anni dopo, Se mi lasci ti cancello, titolo terribile di Eternal Sunshine of a Spotless Mind, di Michelle... a quest'ora troppo caldo mi sfugge il nome del regista. Comunque, in quel film la tematica della cancellazione della memoria poteva essere calata in un presente. In realtà non ha bisogno di essere calata in un futuro. Oramai certe tematiche informatiche, anche la manipolazione della memoria sotto quasi in parallelismo informatico, è qualcosa di molto più vicino. Sì, l'esempio che tu fai è calzante, nel senso che alcuni dei critici, diciamo così, letterari e non, sostengono che in fondo noi viviamo già in un mondo molto fantascientifico, no? Pensiamo solo anche ai nostri cellulari, ai nostri tablet, alle connessioni con internet, a quello che riusciamo a tenere come a livello di informazioni in un batter d'occhio. Tutto questo qualche anno fa era fantascienza, oggi è realtà. Quindi alcuni sostengono che in fondo la fantascienza ha perso terreno rispetto alla realtà in qualche modo, e quindi non è riuscito più a riempire con le sue idee il nostro immaginario, e quindi in qualche modo a non essere, diciamo, più avanti della realtà. E questo è sicuramente vero, insomma. Tra l'altro il regista è Michel Gondry. Mi sono messo a googlare, però mi è venuto in mente nel momento in cui mi sono messo a googlare con lo smartphone. Esatto. Quindi questo è quello che dicevo io, cioè, esatto. Prima avresti dovuto consultare qualche vecchia rivista, esatto, o un libro e così via. Oggi basta fare un attimino. No, però è venuto in mente nell'atto di googlare, questa è la cosa divertente. Mi è venuto in mente mentre cercavo prima di arrivarci. Quindi vuol dire che è solo la mia memoria che si aggancia a meccanismi strani. E tu l'hai vista da lettore di fantascienza, l'hai vista cambiare parecchio come temi? Ti aspettavi, anche rispetto alla realtà, questi anni, come ti aspettavi che saremmo arrivati a questo livello di tecnologia? No, sicuramente la realtà, come dire, ha superato ogni limite, insomma. Io appartengo a una generazione che quando andava a scuola i computer c'erano, ma erano vecchi Apple o vecchi terminali che occupavano, diciamo, anche come computer, anche un bel pezzo di una stanza. È chiaro che le tecnologie informatiche hanno, come dire, ci hanno portato in un territorio che è ancora inesplorato per certi versi, e sicuramente moltissimi autori di fantascienza l'hanno esplorata e la stanno esplorando. Quindi su questo, diciamo, anche alcuni scrittori sono in realtà a livello della realtà, se non anche più avanti, però si fatica poi a come dire, fare leggere questo tipo di storie nel momento in cui c'è una forte concorrenza, diciamo, della realtà, e quindi gli autori spesso poi faticano magari a cercare come dire, delle cose che vanno oltre quelle che conoscono nella realtà. Sì, sì, sì, sì, sì. Un altro spunto interessante che volevo chiederti è Delos ha credo almeno 15 anni di vita, questo Delos come Delos, regista. No, è nata nel 93, credo, sì. Sì, quindi allora sono più di 15 anni. Sì. Ok. Io mi ricordo da lettore che era un po' più era quasi difficile trattare di attualità e di fantascienza, fare una rivista che fosse di fantascienza e di attualità. E anche adesso c'è fantascienza ovunque, allo stesso tempo non è fantascienza in senso stretto, cioè puoi parlare di Avengers, però non avrà niente a che fare con quella che è stata la fantascienza storica. È difficile oggi scegliere gli argomenti per dello science fiction per una rivista? No, è difficile, in realtà è anche facile allo stesso tempo, perché noi come Delos, essendo una rivista mensile ed essendo online, siamo, o almeno questa è la mia scelta come direttore, è molto legata alla, come dire, alla fantascienza che mese per mese in qualche modo lo spettacolo, il mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento okay. ci propone. Quindi cioè tu lavori comunque sull'attualità. Sì, e poi... io lavoro molto sull'attualità, però questo non toglie che poi in alcune rubriche parliamo anche di altre cose del passato. Ma comunque l'attualità può fornire spunto magari per approfondimento, per altro, però sì, c'è tanta c'è più fantascienza adesso da cui prendere spunto rispetto a qualche anno fa? Secondo me sì, perché oggi c'è diciamo più fantascienza, c'è molto più varietà. Io per esempio qualche anno fa ho fatto uno speciale su che era inimmaginabile, penso qualche anno fa, uno speciale su i romanzi tratti dai videogiochi di fantascienza. Okay. Cioè, pensare a un connubio tra i videogiochi e i romanzi di fantascienza era fino a qualche anno fa fantascienza. Fantascienza, appunto. E ho intervistato Brian Evenson, che è uno scrittore che tra l'altro fa regolarmente romanzi tratti da saghe di videogiochi. E poi scrive romanzi mainstream, cioè romanzi generalisti che non hanno nulla a che fare né col fantastico né con la fantascienza. Okay. Perché gli americani poi hanno tutto un loro pensare, per cui sono dei professionisti e se trovano l'interesse a scrivere qualsiasi cosa possono tranquillamente passare dalla fantascienza o dal un romanzo generalista o che so a un altro tipo di romanzo. Ci sono molti scrittori che pubblicano appunto anche per esempio romanzi tratti da fumetti e così via, cioè come dire, in questo senso c'è più varietà e c'è sicuramente più possibilità rispetto a qualche anno fa. Certo. E invece c'è qualcosa che secondo te è andato perduto, la conoscenza di certi autori, c'è qualcosa che... Ma secondo me tutte le nuove generazioni, e li invito a fare questo, dovrebbero riscoprire proprio alcuni dei classici della fantascienza, autori come Brown, lo stesso Dick, Heinlein, tu citavi Clark, anche Asimov, che per certi versi poi è diciamo amato e non amato dagli appassionati di fantascienza. Ci sono tutta una miriade anche di altri scrittori. Urania, nella sua collezione Urania, appunto la collana che Venedig spesso ripropone anche questi testi e questi autori. La stessa Mondadori ha mandato qualche anno fa, un anno fa circa, alcuni dei classici della fantascienza americana. E secondo me bisognerebbe fare un lavoro, e questo vale per tutti quanti noi diciamo operatori del settore, di promuovere anche questo genere di storie. Io lo faccio per esempio in alcune rubriche, o spesso lo faccio cercando di legare appunto film attuali con romanzi invece di scrittori del passato, quando le tematiche sono molto simili e sono in qualche modo, se vuoi, ispirate, no, da queste cose. Matrix per esempio si diceva era molto ispirata sicuramente a Cyberpunk, a Gibson, Sterling, questi grandissimi autori, ma anche a un autore come Dick, e quindi in qualche modo ci fu anche contemporaneamente una riscoperta di Philip Dick. Certo. E visto che andiamo verso la chiusura, ti chiedo tre libri assolutamente, proprio autore e titolo assolutamente da leggere per qualcuno che si affascina alla fantascienza, ma pesca tra le rarità, non deve essere una lista esaustiva. però consigli di lettura, oppure neanche tre, consigli di lettura di autori che magari qualcuno potrebbe non aver più sentito nominare, come tu hai citato Farmer, se vuoi ti do la io, e visto che c'è un'esplosione anche delle saghe fantasy, eccetera, dei romanzi fiume, eccetera, andatevi a leggere la saga del fiume di Riverworld di Philip Joseph Farmer, perché tutta la sociologia, la storia, le invenzioni che ci sono lì dentro meritano meritano parecchio di essere letti. Ma io, e Riverworld è ripubblicato come saga in Fanucci, cioè Fanucci, si trova, esatto, anche si trova in edizione, si trova anche economica, quindi. Ma io, guarda, ti cito alcuni degli scrittori con cui io sono cresciuto, quindi la faccio facile. Okay. Uno di questi è Frederick Brown. Okay. Assurdo Universo, secondo me, è uno dei romanzi più divertenti, e che forse e parla anche molto di fantascienza, certo, perché la storia parla di un direttore di una rivista di fantascienza, quindi la cosa mi tocca molto da vicino. Okay. Che si ritrova appunto in un mondo molto fantascientifico, in un mondo alternativo che è proprio fantascientifico, e lui invece parte dalla realtà nostra, quindi dall'America degli anni 40, e si ritrova in un mondo fantascientifico, ed è un romanzo molto divertente. Sempre restando in tema di romanzi molto divertenti, io consiglio sempre ai ragazzi di leggere Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams, che secondo me è un ottimo punto di partenza per, diciamo, almeno per la generazione attuale, per arrivare poi magari a leggere altre cose di fantascienza. Beh, dentro c'è tutta la fantascienza, l'umorismo inglese, neanche, esatto, la fantascienza, esatto, perché parenti stretti di Douglas Adams sono da un lato Monty Python, come discendenza Neil, esatto, Gaiman e Terry Pratchett, c'è tanta ciccia partendo da lì. Sì, poi Incontro con Rama di Arthur C. Clarke è bellissimo, ci sono tanti, potrei citarne tanti, non abbiamo il tempo, però insomma questi possono essere sicuramente ottimi punti di partenza. Okay. per un ragazzo che vuole avvicinarsi a questi mondi, in fondo nei quali in qualche modo è già proiettato, perché, esatto, sicuramente più di noi vive una realtà, come dicevamo prima, molto più fantascientifica. Esatto, esatto. Allora, grazie a Carmine Treanni per essere stato grazie con noi. Grazie a voi, a te. Se vuoi darci qualche coordinata internet per trovarti, in particolare magari l'indirizzo di Delos, sì, o... Il portale il principale portale di fantascienza che abbiamo in Italia, che è www.fantascienza.com, dove trovate al suo interno anche Delos Science Fiction, che è la rivista che curo e che ogni mese propone appunto la fantascienza attuale, quella del momento, cinematografica e non solo, letteraria e non solo, e poi vi parla anche della fantascienza del passato in un mix dove tentiamo appunto di essere attuali ma anche di dare in qualche modo le coordinate di cosa è stata la fantascienza negli anni passati. Ok, grazie ancora. Grazie Carmine a te, Treanni. E forse hai mandato una canzone, Alessandro, non so cosa. Niente canzone, allora penso che la diretta. Ok, lasciamo la linea altrove. Io vi do appuntamento nei prossimi giorni, sempre anche con Sono Solo Nuvolette a Radio Archimede.